È difficile trattare l'argomento dell'amicizia senza tener conto di ciò che ha scritto C.S. Lewis nel suo libro I quattro amori. Perciò parte di queste riflessioni sono sue. L'amicizia, con l'affetto, l'innamoramento e l'amore, fa parte dei nostri sentimenti e affetti. Dagli antichi era considerato il più felice e il più completo degli affetti umani. Il mondo moderno, al contrario, lo ignora. Eppure, tutti sentiamo il bisogno, oltre ad una moglie, ad un marito e ad una famiglia, di avere qualcos'altro, cioè un amico. Proprio per questo, il detto che chi trova un amico trova un tesoro è vero non solo perché l'amico in sé è un tesoro, ma che la relazione d'amicizia è anche un tesoro per chi l'ha. Come mai è difficile creare un'amicizia? Come mai sono pochi coloro che hanno un vero amico? Perché sono pochi coloro che ne fanno esperienza. Si può vivere tutta una vita a fianco a fianco con migliaia di persone senza che nasca un'amicizia. La ragione è molto semplice. L'amicizia è il meno naturale degli affetti, il meno istintivo, biologico o indispensabile. Prima o poi, a tutti capita di affezionarci di qualcuno, alla maggioranza delle persone capita di innamorarsi. Tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati, ma l'amicizia non è indispensabile per poter vivere. Anche se credo che tutti, nel profondo del nostro essere, abbiamo bisogno almeno di un compagno o di un amico fedele che promette e al quale desideriamo aprirci, nel banchetto della vita l'amicizia rimane comunque un contorno e non il piatto principale. Se ci è il contorno, ben venga. Diversamente, chi non l'ha mai assaggiato non lo cerca e non ne sente la mancanza. Un'altra ragione perché è difficile creare un'amicizia, o addirittura perché vi è riluttanza ad averla, è che in fondo si pensa che ogni vera e profonda amicizia conduca all'omosessualità. Ma questo è un preconcetto che non regge. Innanzitutto perché due persone legate sessualmente non possono avere una pura amicizia. Così come viene intesa la vera amicizia, l'amicizia nasce dal semplice cameratismo. Quando due o più compagni scoprono di avere un'idea, un interesse o anche soltanto un gusto che gli altri non condividono, due sposi possono essere amici perché hanno passione per lo stesso hobby, ma la sessualità li porta su di un terreno troppo intimo per rimanere puri amici o amici puri. Chi non riesce a concepire l'amicizia come un affetto reale, ma la considera un travestimento dell'omosessualità, fa suscitare in noi il sospetto di non aver mai avuto un amico. Una terza ragione per la quale è difficile avere un'amicizia si deve al nostro egoismo. Agli innamorati piace stare da soli, mentre gli amici sono ben contenti di condividere i loro interessi. A nessuno di noi piace condividere una relazione amorosa, mentre gli amici sono ben contenti di condividere ciò che li unisce. E questo può essere la passione per la caccia, la raccolta di francobolli, un certo tipo di musica, eccetera. Un matrimonio di per sé può favorire l'egoismo, mentre l'amicizia stimola inevitabilmente l'altruismo perché si ha il desiderio di condividere, e più si condivide, e più si è contenti. L'amicizia è il meno geloso degli affetti. L'amicizia è stata definita una scuola di virtù. In effetti, mentre l'amore è un dovere, l'amicizia è un affetto squisitamente arbitrario. Io non ho il dovere di essere amico verso nessuno, e nessuno ha il dovere di esserlo nei miei confronti. Un tale rapporto è spontaneo, reale, che dona senza chiedere. L'amico consiglia, dona consola, presta senza aspettarsi il contraccambio. Se non ha questo atteggiamento, non è un amico. O è un coniuge, o un nemico. L'amicizia è uno strumento attraverso il quale Dio rivela a ciascuno di noi le bellezze degli altri. Ci fa scoprire qualità e doni di qualcuno che prima ci era estraneo. Per questo si può fare distinzione tra amicizia e amicizia. Generalmente i ragazzi hanno molte amicizie, compagni di scuola, di quartiere, parenti, ma veri amici ne hanno pochi, o nessuno. L'amicizia rimane uno dei doni meravigliosi della vita, ma è esposta però ad uno dei pericoli più naturali e comuni, l'orgoglio. Vi sono alcuni che fondano un'amicizia per escludere gli altri, altri si distaccano dal gregge perché si sentono migliori. Questa amicizia è anticomunitaria perché ci fa allontanare dal gregge anziché avvicinarci. Quando si dice noi siamo amici, implicitamente alcuni vogliono dire gli altri non lo sono, o peggio ancora, gli altri non li vogliamo. Una tale amicizia è da evitare, per non parlare dell'amicizia diabolica che serve per cospirare contro qualcuno. Come Erode e Pilato che divennero amici, mentre prima erano stati nemici, solo perché avevano intenzione di colpire un terzo innocente, Gesù Cristo. La parola di Dio, che affronta ogni settore della nostra vita, parla sovente dell'amicizia. Vale la pena valutare le sue affermazioni. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17:17. E ancora. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Proverbi 27:9. Si è sempre affermato che l'amore è l'ingrediente mediante il quale esiste e vive una comunità e mediante il quale il mondo riconosce i discepoli di Cristo. Purtroppo non sempre la Chiesa vive un rapporto di amore e, nonostante a volte non vi siano dei grossi conflitti, ce ne chiediamo la ragione. Ebbene, dopo quello che abbiamo considerato, mi sembra di individuare il motivo principale. I credenti vivono come fratelli. Si salutano come fratelli. Si considerano fratelli, ma non conoscono l'amicizia. Se l'amico ama in ogni tempo ed è un fratello nella distretta, una comunità di figli di Dio ha già tutti gli elementi per essere felice e essere una testimonianza al mondo. Se l'amico è colui che rallegra il cuore con i suoi consigli cordiali, nella Chiesa vi sarebbe molto più ministero di consolazione e di edificazione che di critica e di divisione. Molte comunità cristiane mancano di una vera amicizia, quel sentimento che porta i credenti a cercarsi perché stanno bene insieme, non perché sia un obbligo, ma perché arricchiscono e si sentono arricchiti. Come sempre, la parola di Dio considera l'altro aspetto della medaglia. Riguardo l'amicizia, considera anche l'aspetto negativo. Le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Proverbi 19:4. Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Proverbi 19:6. Tutti i fratelli del povero lo odiano, quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui. Egli li supplica con parole, ma già sono scomparsi. Proverbi 19:7. Il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Proverbi 14:20. Questa realtà mette in evidenza un dato di fatto. Il mondo è pieno di persone che si dichiarano amiche ma solo quando tutto va bene, mentre un vero amico si vede proprio nel momento del bisogno, quando ti trovi in difficoltà finanziarie e di reputazione. Quando la Bibbia parla di ricchezza, non si riferisce sempre solo al denaro, perché nel mondo vi sono tante altre ricchezze. Vi è la persona che è più intelligente, più considerata, più virtuosa. Per natura, tutti siamo attratti da quello che una persona ha e non da quello che è. Il vero amico ama in te l'altro se stesso e non quello che possiedi o gli dai. Ama la tua personalità perché tu sei diverso da lui. Ama perfino i tuoi difetti e i tuoi limiti perché desidera aiutarti a migliorare. Se l'amicizia è uno dei più preziosi doni, allora è pure uno dei più preziosi rapporti umani. Per questo l'amicizia viene presa come pietra di paragone per far comprendere la gravità di certi peccati. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Proverbi 17:9. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Proverbi 16:28. Questi due proverbi ci fanno comprendere alcune verità. La maldicenza e la mancanza di delicatezza sono in grado di distruggere il profondo rapporto dell'amicizia. Quante volte è stata distrutta un'amicizia dai maldicenti per mancanza di sensibilità? Per rancore, per amarezza, perché si ritorna sempre su a certi torti. Questo è valevole soprattutto nel matrimonio dove i torti sono più frequenti e maggiormente ricordati. Due sposi non saranno mai veramente felici se non realizzano una certa amicizia. Nel libro dei Cantico dei Cantici gli sposi si chiamano amici una trentina di volte. La vera amicizia resiste ad ogni attacco. Personalmente, quando una persona mi è amica, difficilmente perde la mia stima. Anche se lo vedessi compiere un'azione sbagliata, subito cerco di comprendere positivamente l'atto. Se lo sorprendessi a rubare, penserei subito che ho visto male, che sia stato costretto da varie circostanze a compiere quel gesto, o che forse quello che ha preso poteva prenderlo. Tutto è possibile, anche che un amico possa sbagliare, ma la mia stima nei suoi confronti non cambierebbe dall'oggi al domani. Come disse Beniamino Franklin, scegli i tuoi amici con prudenza e sii molto cauto nel rompere le tue amicizie. Un'amicizia che crolla alla prima prova non è amicizia, e se lo è stata, la prova ha rivelato il punto debole di quel rapporto. Ti piacerebbe avere un vero amico o una vera amica? Certamente sì, ca. Come avere allora? O com'è possibile creare un'amicizia? Ecco cosa fare. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Giovanni 15, 12-16. Per instaurare un vero rapporto di amicizia bisogna aprirsi. Occorre partecipare, è indispensabile farsi conoscere. L'amico è sempre presente anche nei momenti difficili. C'erano due amici che erano insieme in guerra. Il combattimento era terribile. E tanti morivano. Quando uno dei due amici era ferito e non riusciva a tornare in trincea, l'altro tornava indietro a prenderlo, anche contro gli ordini del suo superiore. Una volta uno dei due fu ferito gravemente, ma era comunque riuscito a trasportare l'amico che era morto. L'ufficiale guardò il soldato morto e con un cenno della testa disse: «Non valeva la pena». Il ragazzo, udendo il commento, rispose: «Ne è valsa la pena, signore, perché quando sono arrivato vicino a lui mi disse: sapevo che saresti venuto». Avere un amico significa non sentirsi soli. Anche nella parola di Dio vi sono episodi molto significati sull'amicizia. Uno dei più conosciuti è il rapporto di amicizia che c'era tra Davide e Jonathan, il figlio del re Saul. Non a caso, quando Jonathan morì, Davide compose un lamento dicendo: «Io sono in angoscia per te, fratello mio Jonathan, tu mi eri molto caro. Il tuo amore per me era meraviglioso più dell'amore delle donne». 2 Samuele 1 e 26. Tale espressione ha dato adito a malintesi. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi dell'esistenza di una certa omosessualità tra Davide e Jonathan, ma se uno avesse avuto l'amicizia che aveva ricevuto Davide perché Jonathan lo aveva salvato più volte dalla morte, allora è comprensibile che il suo affetto fosse stato più prezioso delle donne. Per crearsi degli amici occorre quindi amare il nostro prossimo. Vi sono dei figli di Dio che vorrebbero degli amici ma non fanno nulla per ottenerli. Aspettano che qualcuno diventi un loro amico. Mentre Gesù ha detto che gli amici dobbiamo farceli interessandoci di loro, io vi dico: fatevi degli amici con delle ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Luca 16, 9. Chi ama i suoi beni difficilmente avrà amici. Gesù fu chiamato amico dei pubblicani e dei peccatori perché faceva loro del bene e gli dedicava del tempo. Visitare le persone anziane, gli ammalati, i bisognosi, interessarsi di coloro che hanno problemi. Chiedere: «Come va? Posso fare qualcosa?» Questo è porgere la mano amica. Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli perché ha fatto conoscere i suoi pensieri e la volontà di Dio. Gli amici diventano tali solo quando noi partecipiamo loro i nostri progetti, le nostre confidenze, che ovviamente devono essere tenute in segreto da chi li ascolta. Aprirsi è un atto di coraggio che pochi hanno. È un gesto che arricchisce. Uno psicologo disse: «Io posso conoscere in me stesso solo quel tanto che ho avuto il coraggio di confidare in te. Un giorno una sorella si confidò con me. Dopo circa un anno mi venne a trovare per confidarmi altre cose e mi disse: quando ti feci quella confidenza, l'ho fatto apposta per metterti alla prova. In seguito, nessuno è venuto a sapere quello che ti avevo confidato, così ho compreso che sai mantenere i segreti. Chi non sa tenere la bocca chiusa non può avere amici ed essere amico. Un tema del genere non può evitare di affrontare l'inevitabile domanda: è giusto l'amicizia tra due persone di sesso opposto? Temo che qualsiasi risposta si dia sia condizionata dalla cultura, perché in quei paesi dove la donna è tenuta distante dalla presenza maschile, tale problematica non si pone neppure. Per loro è certamente impossibile non solo che ci sia un'amicizia tra un uomo e una donna, ma che una donna possa confidare ad un uomo una qualsiasi cosa. In questi paesi l'uomo e la donna vivono in due mondi completamente separati, conoscendo solo il rapporto esistente nel matrimonio. Una verità dobbiamo subito esporla: una vera e profonda amicizia fra i giovani di sesso opposto non può esistere, perché l'istinto della riproduzione inquina e spesso prevale nel loro rapporto. Quando uno dei due si apre, l'altro per natura è tentato di aiutarlo ed esprimergli il suo affetto, cosa che il più delle volte può essere fatale. Finché non si è attraversato la sponda, il viaggio rimane terribilmente seducente. Altra cosa invece è l'amicizia tra due persone di sesso opposto già sposate. Diciamolo subito: una persona sposata non è automaticamente matura. Non significa che sappia come comportarsi con l'altro sesso. Perciò, in generale, amicizie profonde è meglio evitarle, perché nell'amico e nell'amica spesso si cerca ciò che non si è trovato nel proprio matrimonio. Molte infedeltà matrimoniali non sono nate propriamente dal desiderio di voler tradire il coniuge, ma perché inaspettatamente si è trovato nell'amico barra a la realizzazione dei propri desideri. Di fronte ad un barattolo di cioccolata con la pancia vuota, chi è quel bambino che è in grado di resistere? Come comportarsi allora? È lecita un'amicizia fuori del matrimonio? Conosco il coro. E la severa condanna di un rapporto di amicizia tra un uomo e una donna? Proprio perché ci è del vero nelle ragioni per le quali si condanna a priori un'amicizia tra un uomo e una donna sposate, riporto ciò che Bobby Lee Holly scrive nel suo libro Person to Person, da persona a persona. Ho un'amica il cui marito è il più dolce e il più amabile degli uomini, si cura della famiglia, provvede con larghezza e decoro alle loro necessità e si dedica completamente a loro. Ma non parla molto, si tiene tutto per sé. Sua moglie è molto sensibile, abile e premurosa, ma non riesce a rivelargli tutto il suo animo, perché lui non capirebbe quel che lei vuol dirgli. E una buona moglie è cosciente dei bisogni di lui e li soddisfa con molta abilità, ma è costretta a ricercare al di fuori della famiglia l'appagamento di alcuni suoi bisogni spirituali. Bisogna imparare a uscire dal coro e considerare che ciò che non appartiene al normale non necessariamente è da condannare. Se una donna che ha un marito da invidiare è costretta a cercare aiuto fuori del matrimonio, cosa dire di quelle che hanno un marito difficile e impossibile? Se nessuno presta loro la spalla dove si può piangere e non dedica del tempo per ascoltare e camminare assieme a chi ha bisogno, dove è l'aiuto? Certo, vi sono rapporti talmente profondi che possono produrre una certa amicizia, e un'amicizia pericolosa, che deve essere evitata ai primi sintomi di un sentimento che vada oltre. Quando, allora, due persone di sesso opposto possono instaurare un'amicizia costruttiva ed edificante? Com'è vero, come disse uno psicologo, che si dovrebbero sposare solo coloro che non hanno bisogno di sposarsi? Così, a mio avviso, dovrebbero diventare e rimanere amici solo coloro che non sentono il bisogno dell'amicizia, perché la necessità può deviare anche il più forte. È vero che un rapporto tra persone di sesso opposto è esposto al pericolo, ma non conosco nessun rapporto esente da pericoli. Il matrimonio è uno di questi, ma ho notato che nessuno lo evita per i rischi ai quali va incontro. Evitare un rapporto solo perché vi sono dei rischi non mi sembra saggio. Anche se è saggio evitare rapporti che contengono pericoli, ma chi è consapevole delle proprie debolezze e limiti, al primo campanello d'allarme romperà tale rapporto. Se uno dovesse fermarsi solo perché ci sono dei pericoli, quelli che svolgono lavori sociali tra i drogati o prostitute non dovrebbero neppure iniziare. Solo alcuni possono svolgere certe attività, coloro che sanno di poterle svolgere. Ritirarsi da un pericolo può essere una scelta intelligente, ma anche di codardia, di mancanza d'amore. Una vera amicizia tra persone di sesso opposto, vissuta nei canoni giusti, è una fonte di benedizione e può essere uno dei rapporti più arricchenti che possano esistere, e cercherò di spiegarne la ragione. Quando Dio creò l'uomo li fece maschio e femmina, perché solo due esseri con due caratteristiche sessuali diverse potevano essere a sua immagine e somiglianza. Quando ci riferiamo ad un uomo o ad una donna, non dobbiamo pensare solo alle loro caratteristiche sessuali, ma anche ai loro fattori psicologici e comportamentali. In definitiva, l'uomo vede il mondo al maschile, la donna al femminile. E così anche nel campo spirituale. L'uomo, come maschio, percepisce in parte la conoscenza di Dio perché lo vede solo al maschile. La donna, come femmina, lo vede solo al femminile. Questi limiti, condizionati di far parte di una sola categoria sessuale, possono essere ridotti solo quando il maschio si arricchisce delle caratteristiche femminili e la donna di quelle maschili. Ora, queste caratteristiche non sono comunicabili mediante un rapporto normale, ma occorre che sia l'uomo che la donna diano accesso agli angoli più reconditi della loro personalità. Non si cresce come persona se non ci si apre. È evidente che tale rapporto è auspicabile e completo solo all'interno del matrimonio, ma, come ha detto lo scrittore Lewis, il matrimonio, per il tipo di rapporto che esige, spesso impedisce di mantenere il rapporto di amicizia puro. Uomini che hanno segnato la storia, come Giovanni Wesley, non conoscevano per nulla cosa significasse l'amicizia all'interno del matrimonio. Dal momento che in cielo vi saranno maschi e femmine, perché diversamente non si sarebbe più un essere creato a immagine di Dio, e dal momento che non si eserciterà la sessualità come tale, credo che il rapporto celeste sia principalmente un rapporto di amicizia. Perché dunque non instaurarla ora con le stesse caratteristiche? Sì, perché l'amicizia, per essere verame Nuovo Testamento e tale, deve essere esse e Nuovo Testamento e da ogni eleme Nuovo Testamento sessuale. È probabile che solo chi ha fatto l'esperienza di Gesù come il vero amico, che è più affezionato di un fratello, Proverbi 18 e 24, possa diventare un vero amico. Un cristiano che diventa un amico è in grado di amare del vero amore, spoglio di sentimentalismo. È in grado di sopportare perché è stato sopportato. È in grado di perdonare perché è stato perdonato. È reso capace di accettare il prossimo perché è stato accettato. È reso idoneo di cercare il bene altrui più del suo, di gioire quando vede la crescita spirituale di altri figli di Dio. Io ti invito quindi di farti amico prima di tutto Gesù, di confidare a Lui i tuoi segreti, di amarlo, facendo le cose che piacciono a Lui. E, poiché è scritto, or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio, Giacomo 2,23, così anche per te Dio offrirà la sua amicizia. Poi potrai entrare nella famiglia di Dio che non è perfetta, ma in essa troverai certamente alcuni veri amici per gustare la relazione che molto probabilmente godrai in cielo per l'eternità. Giugno 2000 Ellero,